Living in the ghetto, living in a mother yard. We know we live as been a shadow. Living in a Babylon, we know we living in the ghetto. Living in a mother yard, we know we live as been a shadow. Living in a Babylon. Pure se guardo indietro, molto prima che io nascevo, non denoto la differenza tra presente e medioevo. Dimmelo un po' se c'è perché, dimmelo un po' se c'è dov'è. Vita meravigliosa, quante le esperienze che ogni giorno stiamo a fare, quante sono le gioie e i dolori da affrontare, quanti passi pazzi e quanti non puoi raccontare. Con la musica mo te lo voglio raccontare. Oh, la storia si ripete, la gente te stimola quando la sto a bere. Oh, la storia si rinnova, la gente vecchia, gente nuova. Oh, la storia si ripete, se non c'è che diviette la pede. Oh, la storia si rinnova. Living in the ghetto, living in a mother yard. We know, we know, we live as fin a shadow. Living in a Babylon. We know, we know, we living in the ghetto. Ora che guarda avanti, molto dopo le leggi santi, non denoto la differenza tra chi ha avuto e ha solo dato. Dimmelo un po' se vive in te, voglia di sopravvivere come la prima volta. Quante le esperienze, quanti sogni ognuno c'ha, quante le saggezze e l'amarezza da affrontare, quante volte ho preso il sole ma non basta mai. Con la musica mo te lo voglio raccontare. Con la musica mo te lo voglio raccontare. Con la musica mo te lo voglio raccontare. Con la musica yo voglio raccontare. Con la musica mo te lo voglio raccontare. Oh, la storia si ripete, la gente te stimola quando la sto a bere. Oh, la storia si rinnova, la gente vecchia, gente nuova. Cerco la guida nel cuore, ammirandone la capacità di essere lume della ragione. Core non dole, occhio non vede. Living in the ghetto, living in a mother yard. Living in a ghetto, living in a Babylon. We know we living in the ghetto, living in a mother yard. Living in a ghetto, living in a Babylon. Abbia nasce, lasciaci verdi. Abbia nasce, lasciaci verdi. Alla mattina quando mi sveglio a me mi tocca essere duro. Sounds like an SOS. Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right. To the rap mobile. Let's go. Oh, di doni li conop a vaiat es a pa li conop a xamogam i la li conop a dat na cató pati salami ve a ca olga lu ca gistu men a gi ni non edo mas pe nasi me ve ve mek a gi shpi pa se pek a lo va fa nek a gi na me tu re me na gi na me se mu a gi mi ke mu a gi da mi se mu e na da se mai pareta a lo va ma na po lu do me se tu re vona a gi ne na sa sa lo na ma te la di la a gi mi no me lu na tu sa sa se ve pi a gi su ma lo na a gi ri la la sa ne sa sa se shpi a gi firma me ba e Shamogam, ira de gono, adat na kato, patir salami pecha, ka olga luka yungumen. Agi nino nedo mas, mena se nebe bebek, agi shvi pasepik, agi vahanek, agi damen kurgunemen, agi namek senu, agi mihkenu, agi dekri senu, ega dar se daj bareta, agi leva na fotu do vese tu je gornam, agi dener fezi strado na uma tega divan, agi fito me viro da tusas na sebi, agi sumalo na pa, agi rila las, nesta sa se štu, agi firma me ba e, agi suma las, nesta sa se štu, agi firma me ba e. No.